intenzione di starti a sentire. Semplicemente ho altro da fare. Guardarmi bene per portarti all'altare. Le parole non bastano. Tanti bei ricordi, ricordi benestanti. Dato le conseguenze non mi lamento più. Come non averti più vicino mi ha portato più lontano. Ma sì, vabbè, lo ammetto, ho cercato la tua mano. Vorrei bloccarti quelle labbra e che colpa ne ho? Se conosco te meglio di chiunque altro. Nella rubrica del telefono ti incontro spesso e vedo te negli occhi della gente e mi dico chiaramente di starmene in disparte. Fare le tre di notte, fumare una sigaretta. Valuto attentamente questa necessità. Ho voglia di dormire e di serenità. Ho una costante tendenza, direi una malattia. Ricordo con caparbietà lo sguardo ad un passato di malinconia. E vale per tutto. Vale per tutto, è il mio gioco soltanto di fissarmi in un punto. Che colpa ne ho se conosco te meglio di chiunque altro? Nella rubrica del telefono ti incontro spesso e vedo te gli occhi della gente e mi dico chiaramente di starmene in disparte. Ah, ti voglio incontrare, ho voglia di illudermi un po' e con te ci sto bene. Credo ancora ad amare quella gioia invisibile che porta alla solitudine, la solitudine, la solitudine, la solitudine, la solitudine.